prendi la giusta interfaccia e fai quello che vuoi, senza spendere grosse cifre. Dipende da cosa vuoi ascoltare. A me piace tutto, perché parte la uso, utilizzo col computer e parte la utilizzo con l'analogico. L'analogico è la cosa più bella, per i miei gusti c'ha la bella manopola, i suoi tastini, i suoi filtri, le sue manopoline e tutto quanto. E va alla grande. Poi ognuno dice, ripeta quello che vuol fare. Quello della VR è un ultimo apparecchio, però tra qualche anno è già superato, perché con tutti i sistemi che stanno uscendo, adesso ce ne sono uno ogni giorno di questi sistemi digitali. Per cui investire e spendere tanti soldi su un apparecchio che è come il telefonino, tra due anni è già superato quello. A quel punto investi su un buon computer e ci metti quello che ci devi mettere per fare il suo lavoro e basta. E facciamo riprendere la Gabina e ci dà anche il suo parere. Avanti Gabina. Sì. Carlo, considera che io ho l'ICOM, quello che stava dicendo Roberto, io ho ricevuto l'ICOM ICR 7000, ed è questa radio riceve l'impossibile. Scusate, questa radio riceve l'impossibile, perché considera che io, vabbè, la uso con l'antenna dell'HF e l'antenna delle VHF, ed è una radio fenomenale, molto intuitiva, molto semplice, perché alle prime armi basta il menu, ed è una radio molto intuitiva, ricevo benissimo. Considera che io questa radio qua l'ho messa in vendita a 500 euro compresa di discona della LEM, però io il discona della LEM l'ho tolto, io lo dico molto francamente, perché non ho segreti, non voglio avere problemi con nessuno, perché la discona in questa radio sinceramente non serve a niente, almeno la discona che ho comprato io. Poi se si va su una Diamond o su una discona anche la sua originale, questo non so dare un parere preciso, perché non l'ho mai trovata. Però questa radio sta andando con due antenne e ti togli tante soddisfazioni. Non c'è, poi è una radio che è una pietra, cioè tu metti lo scotch, è una pietra, non ti dà disturbo di niente, e la qualità è tutto il giorno accesa, non sbarra un colpo. Sono radio di altri tempi, radio buone. Riprendi Carlo. Sì, la stavo giusto visualizzando. Io il problema è che non ho molto spazio, però anche la soluzione che prima ha accennato Roberto, quella di prendere un programma buono col computer, in effetti anche quella è una cosa, non spendo tanti soldi, forse se magari investo su una radio nuova, magari da usare qua per farmi la stazione CB come si deve. Sì, Robe, poi magari un giorno che abbiamo più tempo, magari mi dirai quale programma, insomma, installare sul computer, come, dove acquistarlo, capito? In effetti col computer può essere anche quella una soluzione, anche perché ti devi ritagliare poi gli spazi per chiacchierare in radio, gli spazi per fare radioascolto, insomma, e quindi alla fine puoi investire tanti soldi, non è che ne valga tanto la pena. Forse quello che hai detto tu è un buon compromesso, che magari non spendi tanti soldi e riesci comunque a ottenere buoni risultati. A te il microfono. Assolutamente. Allora, tu senza spendere, non dico le chiavetti da 30 euro, che quelle hanno tanti problemi perché non hanno fili, sono derivati da piccoli ricevitori, quelli che facevano le chiavette modificavano i ricevitori digitali terrestri, si facevano una piccola modifica in modo da ampliarli di ricezione, ma quelle lasciale perdere. Però esistono, diciamo, intorno ai 60-70 euro, che abbiamo le scatolettine, dette volgarmente, e hanno due ingressi per le antenne HF e per le antenne VHF, o UHF in questo caso, perché salgono fino a quasi 2300 MHz, 2 giga e 3 fanno. Se metti un filtro in ingresso nella parte HF, un filtro per tagliare gli 8808 broadcasting, hai dei buoni, non dico ottimi risultati, ma dei buoni risultati, e ti diverti. Io ce l'ho collegata al computer, ti posso dire, mi ripeto, programmi ce ne sono decine, il più comune è quello SDR sacro, poi ci sono tutte le varianti, e con quello puoi decodificare tutto quello che vuoi. Addirittura ci sono cose che non so neanche come si usano, tante funzioni c'ha quel programma di ritrovamenti, ti appare una pagina grande quanto il monitor, con tutte le funzioni, con tutti i filtri, stretto, largo, d'enfasi di non so quanto, di meno, di più, water photo per darti tutto lo spettro, con tutte le stazioni in quel momento, te lo puoi allargare, te lo puoi restringere, ti puoi fare tutto quello che vuoi, ed è bellissimo quando vedi tutto il segnale che ti sta ricevendo, lo vedi con tutte le sue caratteristiche, oltre che vedere l'intensità del segnale, che te lo puoi scegliere con, se lo vuoi dire ad ago o digitale, ti puoi fare quello che vuoi, cioè è tipo un videogioco, e vedi tutto il waterfall, la cascata è in italiano, dove vedi il segnale, come viene modulato, eccetera, eccetera, è molto molto bello, cioè sta a spendere tanti soldi, una sessantina di euro, poi se vuoi qualcosa di più importante, ci sono quelli diciamo già per uso radioamatoriale, per sé uso con 400 euro, però sinceramente investire secondo me in cose del genere, quando lo puoi fare con molto meno, per avere molto meglio sì, però devi spendere molto molto di più per avere di meglio. A quel punto ti consiglio uno di questi RTL 232, non mi ricordo come si chiama, quello che c'è, ne ho un paio di queste, e vanno più che bene. C'è Claudio Di Muros che è un maestro con quelle pale, con quei sistemi lì, riceve tutto il possibile, probabilmente lui c'è anche una zona un po' particolare perché non viene disturbato dalle bloccazzi, e qua a Sassari le bloccazzi che fanno un po' di danno, soprattutto per le bande più basse, per le HF, basta mettere un filtro d'ingresso e ti diverti tantissimo, ce n'è per tutti i gusti, e poi è abbinere un bel ricevitore, come sta dicendo anche Coso, l'ICR7000 c'ha l'alimentatore dentro contenuto, una radio perfetta per gli usi normali, senza spendere troppi soldi, c'è una bellissima radio, ti fa ascoltare anche le broccazzi, perfetta, va benissimo, l'unico limite non ha, sotto i 25 le megahertz non puoi andare, le HF non le puoi fare, però al limite te le fai con un'altra cosa, e no problem, e io lo consiglio candidamente. Poi c'era anche il 9000, però ho parlato con Biancone, perché io stavo cercando un 9000 quando avevo il 7000, ho detto lascia perdere, perché il 9000 è il 7000 leggermente migliorato, che costava il doppio, c'è in più un analizzatore di spettro che dà tanti di quei problemi, che la metà sono pochi, sono troppi, per cui ho preso il 7000 e ne sono pienamente soddisfatto. Faccio riprendere un attimino a te che darà il tuo commento, e poi riprenderà anche Gavino dall'altra parte, vai Carlo. Sì sì, infatti è ormai quello, il CR7000 è collaudato, e ciò che è uscito dopo magari non ha soddisfatto pienamente, per cui rimane quello il meglio. Adesso quello che mi dicevi prima mi sembra anche interessante, questa questione delle interfacce che magari ti danno la possibilità di regolare, di fare un po' tutto, insomma adesso vedo un po' e approfondisco la questione e poi nel caso ti farò sapere. Facciamo riprendere Gavino, io poi ascolto, sto ancora 5 minuti, non mi posso trattenere perché domani mattina c'è il turno alle 5, quindi alle 4 mi sono alla sveglia e devo andare a lavorare. Riprendi pure Gavino. Sì, perfetto Carlo, perfetto. Guarda, a me piace anche molto il 991, è una radio molto complessa. Il 991, non so se l'hai visto Carlo, guardalo, confrontalo con altri apparecchi, però anche il 991 è molto, diciamo, mi piace, è bello. Io con l'FT100D mi sono trovato bene, però poi mi ha dato problemi allo squelce e non chiudeva, ho chiamato Iaesu e non si poteva riparare perché smontare le sue schede, le sue piatine, non si trovavano poi l'altra in sostituzione, quindi l'ho dovuto vendere così, l'ho dovuto fare così. Era un quadribanda a Carlo, molto, invece era molto performante, era bello, era anche, aveva sì dei sottomenu, ma erano molto intuitivi e venivano, erano facili da usare, però è sempre un veicolare, che ha bisogno di almeno una ventina di ampere per pilotarlo, ripeto, a me sta piacendo molto il 991, sto guardando anche quello, però ripeto, ho spazio a spazio prima al lavoro e al guadagno, poi alla passione, si spenderà quando entrerà l'incasso. Riprendi Roberto. No, assolutamente, 991, ci sono delle persone che vogliono solo quello. Io ho un amico radioamatore e c'è anche possibilità, nel senso potrebbe comprarsi anche più grande, e mi ha detto: io sono la radio mia ideale, che sono portato, che ha preso molte volte, e dice: faccio tutto quello che devo fare, una radio completa di ultimissima generazione, e lui 991 ha lui come modello. Poi ognuno ha i suoi gusti, e a me piace il 5000, per il momento non ho le possibilità e mi accontento del 3000, che sono molto simili, però quello è l'evoluzione. Il 5000 è ancora meglio, sono belle radio tutte. Diciamo, a quei livelli sono tutte belle. Poi se uno vuole una radio nuovissima, quella che ha fatto nuova la IESO, che è micidiale, per quel prezzo che costa non c'è niente di meglio. Ammazzare al mercato come l'aveva ammazzato per un certo periodo di tempo il 7003 della ICOM, però ci aveva qualche problemino, si sente in giro, qualcuno ha avuto dei problemini. Ok, tenete presente il 7000, Marco Scorpion, che non so se avete sentito, KB per i radioamatori, lui lo utilizza per i satelliti, lui è specialista in satelliti, col convertitore, ha messo il suo convertitore, riceve i programmi da satellite a quocente, utilizza l'ICR 7000, per dire, una radio di 30 anni fa è ancora utilizzabile per fare delle cose moderne, per convertire il segnale satellitare che lavora a 10 GHz, converte sulla frequenza del coso, in analogico del ICR 7000, per cui abbiamo detto tutto, è ancora attuale come radio, come TS 2000, una radio del 2000 appunto, eppure da mattana radio molto molto più moderne, e soprattutto non trovi uno uguale, forse la IESO ha fatto uno uguale con le stesse più o meno caratteristiche. Di nuovo a te Carlo, così ti facciamo andare via, non ti tratteniamo troppo, e di nuovo a te. Diciamo cose interessanti che mi interessano personalmente, ma purtroppo devo chiudere. Sì, gli stavo dando un'occhiata a questo FT991, in effetti esteticamente è una cannonazza, e mi sembra anche bello compatto, non ingombrante, ma ho visto anche quello che costa, e insomma dai, pensieri se ne facciamo tanti, discorsi lo stesso, e speriamo che se ne facciano a lungo, dai. Poi vediamo cosa ne esce fuori più in là. Niente, non posso trattenermi più di tanto, vi saluto, grazie del QSO, Roberto e Gavino, ascolto il vostro finale, poi spengo tutto e me ne vado a nanna, buonanotte. Ok, riprendo io. Va bene, è sempre un piacere, già lo sai, con te Carlo, sempre un piacere ascoltarti e discutere, sono sempre belli argomenti, tranquilli, senza conversazioni di cose particolari che non ce ne frega niente molte volte a nessuno. Ok, ti saluto, ti auguro una buonanotte, un buon riposo e un buon lavoro per domani mattina. Vai di nuovo tu Gavino per il saluto. Sì, ciao Carlo, dai, grazie per le questioni. Anche per me è sempre un piacere, dai, quando entri, scambiare quattro chiacchiere, è un discorso diciamo professionale, come piacciono a me. Dai, buonanotte e buon tutto per domani, un saluto da Gavino, operatore Gavino, da 27075, buonanotte Carlo. Ciao. Ciao, buonanotte. Ciao. Buonanotte Carlo, riprendi Roberto. No, 991 è una radio poi di nuovissima generazione, completa, non è troppo grande, questo amico mio che c'ha il camper se lo porta appresso e si diverte, fa di tutto, remotizzabile, puoi fare quello che vuoi, c'è tutta la stazione che ha in abitazione, è una bellissima radio, completa, anche se devo dire per i miei gusti a me mi piacciono più grandi, io preferisco le radio quelle più grosse, ciò grazie a Dio non ho problemi di spazio e le radio mi piacciono belle grandi, però quella lì ti permette di fare tutto con grandissime prestazioni, invidiabile come prestazione da tantissime radio concorrenti, è una bellissima radio. Ok, costa diciamo un prezzo abbastanza competitivo, perché costa mi sembra intorno ai 1400 euro, però c'è una radio garantita a 5 anni e ti permette di, come ho detto prima, di fare tante tante cose in ottime condizioni. Sì, no, infatti a me piace tanto. C'era un amico che diciamo ne parla molto bene e poi diciamo la sto studiando su internet, mi ho scaricato il suo manuale per vedere le funzionalità ed guarda, la reputo una radio qualità prezzo molto efficiente, però diciamo che vabbè, parlo di me come se vuole, ma al momento mi va bene questa portazione, anzi anche troppo, quindi l'unica cosa che vorrei cambiare la KF è prendere un, ripeto, un 738, un 775, perché la vedo una radio più completa, in confronto a questa che ho. Qui per la 27 va bene questa che sto usando. Niente Roberto, sono uscito di testa l'altro giorno, stavo uscendo di testa per trovare un toroide dell'admin, ma in Sardegna non si trovano. Guarda, io non so in particolare, se c'è qualche toroide ce l'ho io da parte, adesso l'altro giorno proprio ne ho messo uno perché c'avevo un rientro su una banda, non capisco per quale motivo, probabilmente la cassa acustica, siccome è l'altoparlante, io ho su una radio un altoparlante della IAESU, quello grosso, tutto in lamiera, tutto in ferro, non è nuovissimo, però è di linea con l'amplificatore, e come andavo in trasmissione col TS2000 sentivo un rientro, metti sul cavo dell'altoparlante che era collegato tra l'altro a un'altra radio un toroide, ho visto che ha eliminato il problema. Io qualcuno ce l'ho da parte eventualmente, però sinceramente se mi dici che tipo è, che cos'è, non lo so, per cui devi andare per prova. Diciamo che ho risolto con un toroide della, ripeto, dell'Admin, un T202, e poi ho fatto 16 spirali 8 più 8 a un tubo da 6 centini dopo il toroide, prima di agganciare l'antenna, diciamo che nel cavo gli ho fatto l'RG58 e ho risolto questa cosa, niente, il prossimo progetto sarà molto impegnativo, perché dovrò fare una bella cornuta, e quella mi metterà alla prova, sia in materiali sia in progettazione. Io sono rimasto molto soddisfatto da questo, diciamo, da questo affilare, perché l'ho messa diciamo in orizzontale e mi dava un S7, di stazionali continue, però come l'ho messa a V invertita è scesa a 1 e 1, è assurda, ho usato del cavo normale, niente di che, cavo da 4. Sono contento, adesso ti ripeto, andrò a progettare una bella cornuta e vedrò un po' cosa fare. No, la cornuta è una grandissima antenna, un'ottima resa, abbastanza direzionale. Io ho parlato di antenne, sono andato domenica scorsa da un grandissimo radioattore di vecchia data, un grande progettista, quello che sta sempre inventando, mi ha fatto vedere questa antenna, non è un progetto suo, però lui l'ha riprodotta, mi ha dato lo schema, che ti fa dai 10 metri agli 80 metri. Lui utilizza cavo in acciaio inox, infatti lo voglio usare anche io, da 8 mm, quello della filo continuo, non so se l'hai mai visto, per saldare, che che è eterno, lo puoi anche fare l'occhiello direttamente di lì, lo puoi ripiegare, fargli un occhiellino, per cui non sai neanche metterti a saldare né fare niente, è eterno, che neanche potenza nel caso che uno usa la trasmissione, c'è un braccio da 16 metri, mi ce l'ho sotto mano il progetto, 16 metri e 20 da una parte e 5 metri e 40 dall'altra, il Balumus è uno, abbiamo fatto delle prove, io sono rimasto scioccato, c'era commutato l'antenna, guarda questo segnale, questo è 5, da 5 a 9 saliva, abbiamo fatto delle prove perché c'era un diploma, e poi mi provo a parlare, come schiacciavo con quell'antenna lì, immediatamente mi rispondeva, adesso sono rimasto a bocca aperta, infatti me la volevo fare anche io, senza niente, senza spendere niente, con poco, l'unica cosa male, il Balum. Poi tornando al toroide, tu il toroide per i denti l'hai fatto, spiegami un po', non ho capito bene. No, il toroide l'ho trovato tramite un amico, questo 030, un toroide 030 con l'arancione, diciamo arancione e nero, è un toroide proprio della ASMI. Tu stai parlando di un dipolo sbilanciato, questo progetto? Sì, però ti posso garantire, lui non ha sollevato neanche tanto, non è riuscito a una parte, il braccio lungo non è neanche aperto completamente, gli ha fatto una curva, e ti posso garantire, vabbè, lui abita la zona di mare, è anche favorito magari per la propagazione, per la riflessione, però ti posso garantire, cavolo, sono rimasto a bocca aperta, infatti per altri 5 minuti cerco di farlo anche io, poi il Balum forse come già prenderlo già pronto non sai perdere tempo. Ma il Balum è una sfidaggine a farlo, ci sia uno poi, non è questo coso. Serve trovare il toroide giusto, mi segui, trovare il toroide e bilanciarlo con i gradi e alzare la serra del braccio sbilanciato e di quello sbilanciato, perché quello sbilanciato sicuramente sarà il polo negativo. Il problema non è tanto farlo, è metterlo dentro un contenitore strano, eccetera, eccetera. Adesso li vendono quelli, almeno quelli che ho fatto io, nel senso me li ha fatti questo reamatore, che è un altro reamatore, che me li ha costruiti lui con la stampante 3D, e sono degli involucri speculari, chiusi, sigillati, proprio non fai niente, quei toroidi all'interno, un lavoro professionale, non te ne accorgi se hai comprato o se hai fatto, talmente è perfetto questo lavoro. No, io parlavo, tu mi hai parlato, hai usato dei toroidi, ma per fare che cosa? Per il Balum o per il rientro di RF? Spiegami un po'. No, per il Balum, 9 a 1, per il rientro di RF ho usato un cucchio, diciamo 8 spirali da una parte e 8 spirali dall'altra in tubo da 6 cm e dovrebbe essere intorno ai 92 cm di cavo, a volte in un tubo di plastica, ripeto 8 spirali da una parte e 8 dall'altra a circa 40 cm di cavo dal PL all'attacco della scatoletta del Balum. E io invece ho utilizzato un altro sistema, tubo in PVC, quello di grondaia, di canale da 110 cm di diametro, uno l'ho fatto col 213 e ho fatto 7 spire, mentre l'altro l'ha fatto con il Regio 58 e ne ho usato 12 di spire, dipende da cosa vuol fare uno, dalla cosa, che cosa c'ha pronto di cavo, però quello che ho fatto con il 213, diciamo forse è più bello esteticamente, poi bloccato bene, tenuto fermo, poi riempito di colla a caldo, sigillato, fascettato ed è una bestiolina, va bene, utilizzando il classico tubo in PVC arancione o grigio che si voglia di scarico d'acqua, ed è sempre ben metterlo, io non l'avevo mai messo, però come ho messo quella roba lì mi ha detto mettilo che se no ti eviti un sacco di problemi, infatti è vero, e l'antenna addirittura riesce a accordare con l'antenna nata per gli 80 metri che fa 5 mande, fa anche 160 metti la verticale, utilizzando quel ciocco di quel modo. Di nuovo a te Gavino, riprendi. Sì, no, poi per fare il Balum ho utilizzato cavo diciamo rosso e nero, cavo rosso e nero da 0,5, non funziona da 0,5, guarda, non mi ricordo, scusa, c'è la mia figlia che sta facendo la camera, non mi ricordo da quanto è questo cavo, però dovrebbe essere 0,5 o 1 o 0,8, comunque, cavo audio, cavo per portare segnale delle casse dalla radio le tasse quasi con la piattina rossa e nera, per intenderci. Diciamo che ho fatto nuove spirali distanziate, messo, diciamo, da cortocircuitato e poi 30 metri di capo, ho provato con 40 metri, con 42 metri, però mi dà abbastanza una reale e poi dopo un problema sistemato, mentre con 30 è perfetto. Quello è il classico lavoro che fanno tutti, però stavo parlando proprio l'altro giorno in officina un ingegnere di telecomunicazioni, che lui era di amatore da una vita, adesso dovrebbe riprendere anche lui perché era già qualche tempo che si è sfasciata la radio, la deve sistemare, lui è solo CW fa, stavo parlando proprio di questi discorsi dei malum, lui utilizza il coso dei vecchi televisori a tubo cattodico, dove ci sono il giovo dietro del televisore, dove c'è tutto il coso, c'è una parte, una specie di anello, mi ha detto, dovrei capire esattamente, me lo deve spiegare perché me l'ha fatto lo schizzo, per te dice uso quello che è un materiale magnetico, per cui non è neanche problema di utilizzare il grafo grosso, fino, distanza, eccetera, eccetera, lo avvolgi finché ne hai voglia, poi prendi il misuratore dello strumento, il multimetro, l'impedenzimetro e ti regoli l'impedenza a 52, a 52 adesso mi ricordo quanto mi ha detto, dipende da cosa devi fare il malum, da quanto lo devi portare, e dice te lo fai come vuoi tu, mettendo le spire senza problemi di distanze, senza problemi di diametro di cavo, perché la tacca di distanza assolutamente è ininfluente, perché tanto è magnetico questo materiale, è tipo le ferriti che si usavano, non so se ti ricordi, le vecchie radioline a transistor, e mettevano l'antenna ripiegata all'interno, a volta così, ha detto, è una ferrite, per cui non ha nessun problema, perché dice, ma come fai il diametro, quant'è la sezione della distanza dalle spire, che misura c'è, è assolutamente ininfluente, e ti esce il miglior volume del mondo, mi ha detto, come semplicità e velocità di costruttiva. Andiamo avanti e riprendi, capito? Allora, se quelle ferriti le trovate da Bricco, come io, quelle, diciamo, quelle circolari e quelle dritte. E di cosa sono? Sono quadrate, ma le puoi benissimo avvolgere col teflon. Sono calamite, ferriti calamite, e ne ho comprato una, vengono 1 euro l'una. Ho fatto così un'antenna a camera aperta a un malun, diciamo un 4-1, e ti devo dire che fa il suo sporco lavoro, non sarà questo granchetto, però l'altro giorno l'ho usata per trasmettere in radio e nessuno ha trovato differenze. Buono allora, andata bene. No, ovviamente è quell'altro, questo che mi ha dato il progetto di questo, col malume 6-1, questo che è uno che si arrangia con niente, tu vedi gli dai due barattoli, due pezzi di ferro e ti fa un'antenna, per dire, ha fatto vedere le cose, infatti rimango sempre a bocca aperta, c'ho grandissima ammirazione, uno di quelli proprio di vecchio stampo, una di amatori, ha collegato tutto il mondo, ma tutto il mondo veramente è certificato, perché mi ha fatto vedere tutte le QSL, adesso c'è VV, quell'isola che si stanno azzuffando tutto il mondo per collegarci, lui l'ha già fatta nel 1977, al mondo ce ne saranno molti, ma molti pochi ancora che l'abbiano fatta, e lui ce l'ha, mi ha fatto vedere, ma sono fotografata la QSL, e lui ha fatto la loop magnetica, si sta facendo, però c'ha problemi, siccome c'hanno tensioni di migliaia di volt queste loop, e non trova il variabile, il condensatore variabile con lamelle che tengono con la potenza lì, stavo parlando con questo ingegnere, proprio mi ha detto, cacchio, vai da questo che c'è a Sassari, gli dà le dimensioni, lui c'ha il taglio laser e te la fa di qualunque dimensione, ci può attaccare qualunque potenza a voi, a seconda dello spessore, le distanze, perché mi ha detto, te le metti, te lo fai tu direttamente, il variabile, e quella è una buona idea, e ogni tanto sentendo qualcuno esperto ti danno delle informazioni che magari tu non ci pensi, perché ti aspetti, cerco qualche radio vecchia che hanno i variabili, quei vecchi condensatori variabili alla media, mi ha detto, lascia perdere, perché si scioglie, come gli dai potenza lo scioglie, e a me che non usi solo in trasmissione, per cui mi ha dato anche una buona idea a lui, di nuovo a te Gavino. Sì, no, il diciamo questa locomagnetica che una ce l'ho anche io, e non dai in trasmissione, sì è bella, ma non lo so, lascia il tempo che trova, trovo più efficace una bella filare. la verità. Trovo che efficace una bella filare, però che non prendi quelle di coso, di basta. Ce l'ho solo appuntata la lingua. Cerca le loco magnetiche per la prefettura, però costano, per le prefetture, ma costano 6.000 euro, 3.000 euro. Però sì, sì, ci sono modi per fare antenne che sono... Io le ho iniziato a fare dal niente, perché basta che poi ne fai una e capisci com'è la situazione. Ci vuole, logicamente, io ho preso anche se è quello un po' più economico, perché non è che mi interessa, devo fare, non lo faccio per lavoro, ma lo faccio per passione. Anche se io la mia passione la coltivo almeno per quanto meglio possibile. Ho preso un nano QNA e me le misuro le antenne che faccio, quindi prima di installarle, diciamo che ho tutto sotto, diciamo quasi tutto sotto controllo, quasi tutto sotto controllo. L'ho preso su Amazon, l'ho pagato 60 euro e va benissimo, va benissimo. Ho controllato quella canna da pesca che ho fatto così al volo con quella ferrite di Bricomen. Il miglior rapporto l'ho avuto sulla 26 che ho 1-1 continuo fino a 27 246 mi dava, sì, 246 se non sbaglio, mi dava 1 ed è stata salita 1-2. Allora, l'antenna è utilissimo, soprattutto quando c'è passione, che stai sempre sperimentando. Assolutamente, era una di quelle spese preventivate. Quanti megahertz arrivi? 500 con quello? Dovrebbe essere 500, dovrebbe essere così. Ti direi una cupidaggine, perché io ho preso, ho guardato un attimino il menu come prendere, come fare, per, diciamo, la modalità più semplice per usarlo, però devo ancora studiare, ce l'ho 15 giorni, ce l'ho 15 bugie a 20 giorni, e quindi devo ancora vederlo, però almeno alla destra devi importare le quattro cosettine che ti dà sia l'SVR sia gli, diciamo, quanti ohm sta dando l'antenna, scusa, quanti hertz sta dando l'antenna. È un cavo, è quel cavo che usa voi, che usa tu per fare questo affilare. L'ho trasformato benissimo a 50 ohm perfetti, cioè bugiano perfetti, erano 51 qualcosa, però è una fesseria. No, non utilizzo io le mie, devo per funzionare, cioè ottimizzare le antenne a parte la verticale è una bomba, però le filari devo sistemarle un pochettino, vanno regolate bene, perché le ho, diciamo, misure empiriche, però qualcosina è da verificare, perché io ho quella scaletta, le filari sovrapposte che ti fa, sono tre filari, più c'ho quello degli 80 metri che l'ho separato, quella antenna a scaletta, però messa in orizzontale le filari. Funziona benissimo, anzi devo dire quella dei coso, dei 40 metri, però sta andando male, probabilmente è successo che si è staccato il cappellotto dove c'è l'occhiello, come me era successo già l'altra volta. Devo salire adesso appena c'è qualche giornata più tranquilla, fortunatamente mi arrangio con l'altra antenna e sta andando lo stesso, però quel dipolo fatto non è un progetto mio, è un progetto fatto da sua volta, preso da un'altra persona, da Marco KB, e funziona che è una meraviglia, anche se vuol dire l'antenna non è disposta in modo ottimale, soprattutto quello degli 80 metri, ho dovuto fare una piega, una specie di zecca, fa, perché è troppo grande, se non ci sta, però funziona bene. Con quella analizzata dell'antenna ti risolvi un sacco di problemi, perché lo fai nell'immediato, senza fare prove di coso, di quello, dell'altro, tagli o accorci, te li accorgi subito, se l'antenna in base alla frequenza se la devi accorciare o addirittura allungare in certi casi. Quella invece è l'antenna, quella fatta tipo sendino, quella con le 5 bande, quella lì sulla banda dei 20 metri non sta andando bene, non è in disaccordo, perché viene risonata su una frequenza che non mi interessa, per cui mi ha detto la devi appena appena o alleggerire, nel senso, perché l'hai tirata troppo, mi ha detto oppure aggiungere 4 cm, quello che l'ha progettata, questo radioamatore l'ha fatto. Comunque, come inizia il bel tempo, si farà tutto. Di nuovo a te, Gavino. Hai provato roba a fare dei contrappesi? Non so se devi sa come è fatta. Ce l'hai presente tu, un classico stendino, quelli quadrati, che c'ha tutto in giro il come si chiama, i fili. Ci sono quattro bracci con il coso. Però io, ignorantemente, dai, da poco esperto, gli ho tirato troppo. E lui mi ha detto, non dovevi tirarla, dovevi lasciare un pochettino molle. E io, tirandola troppo, secondo me ho causato qualcosa. Lui mi ha detto, non deve essere tirata, deve essere leggermente molle l'antenna, per averla bella l'estetica, eccetera, eccetera. E mi ha detto, basta che la moglie, appena appena, sono sicuro che ritorna come la... Perché tutte le altre bande accordano perfettamente. La banda dei 20 metri, quella più lunga, e non mi accordo, va fuori frequenza, diciamo, c'ho il rosso troppo alto. Vediamo un po', adesso quando inizia la bella stagione lo cercheremo di mollare, tanto un secondino c'ha della specie di degli inserti, perché lui ha costruito anche degli inserti con la 3D, per il modo che infili il filo dentro, lo regoli e te lo pari. Ecco, è una cosa semplicissima, e quello ha collegato tutto il mondo, l'ha venduta anche in Indonesia con le antenne lì che ha fatto a me. Ok, di nuovo a te, Gavino, riprendo. Sì. Perché a me avevano spiegato che il cavo più è in tira più sale di impedenza, quindi tenendo di impedenza, magari adesso io non so, non conosco questa antenna, che, perché non l'ho mai, forse ho capito, è un quadrato con 5 fili, però mi hanno spiegato che anche mettendo molto in tira anche la filare, aumenta l'impedenza, quindi non riesci mai a regolare, ti darà sempre del rosso alto, sempre del rosso alto. Comunque, sì, a me questa cosa del, per esempio, con il nano WNA, sì, è vero, ti risolvi tantissimi, ma tantissimi problemi. Cioè, prima di installare l'antenna, prendi la metti su un palo, poi va bene, la metti in campagna, posso fare le prove che voglio. E ti posso dire anche una cosa, a me nell'affilare mi stava dando proprio, perché io l'ho agganciata, diciamo, dalla punta del traliccio dove ho la Grazioli, a un pino che era a 42 metri da me, della campagna del vicino, che è sotto direzione, me l'ha fatto mettere con una corda. Mi cava abbastanza stazionare, con lo stesso cavo, lo stesso palo, lo stesso torre, messa con invertita 1-1. Ci sono tante cose da vedere, tante cose da valutare, secondo me anche quanto gli apri le braccia a queste antenne, perché io ho fatto che mettendola a 120 gradi, più o meno, perché non ho fatto una misura accurata, però mettendola più o meno a 120 gradi riesci a perfezionarla a 2 metri da terra, e a 2 metri da terra e a 120 gradi le braccia uno dall'altro. Sì, no, sono tanti fattori che influiscono. Ti dico, con l'antenna che c'è io, la verticale, è rimasta anche lui a bocca aperta, mi ha detto, se tu vedi dove è montata quell'antenna, perché c'ha il vantaggio, questa antenna verticale è circa 11 metri di altezza, fatta la classica canna da pesca, però a volta, ti ha messo col filo dentro, ci sono più di 12 metri, adesso mi ricordo esattamente le misure, e c'è il balun 4-1 sotto. Questa qua è attaccata a un parapetto, tu fai conto, un terrazzo l'ultimo piano, il terrazzo l'ultimo piano, attaccata al muro, il palo, 2 metri di palo, qui a fianco a questa antenna c'è il vano dell'ascensore, sarà 2 metri, l'antenna funziona che è una meraviglia, accorda anche i 160 metri perfettamente, è micidiale, anche lui è rimasto a bocca aperta, gli ho messo il ciocco, la stessa antenna sua, il vicino lui, questo di Abbasanta, lui gli funziona benissimo, però ai 160 non ce la fa ad accordare, a me ha detto probabilmente c'è un bel piano di massa. Il vicino lui ha preso la stessa l'antenna sua e saranno a 200 metri di distanza in un terreno pianeggiante, ha attaccato l'antenna sua e l'ha montata a casa del vicino, non funzionava. chiama, dice non funziona, non funziona, le ha messo il choc e ha funzionato, per dire, sono tante fesserie che sembrano ininfluenti eppure funziona. Quella invece, quella che ci tenevo di più, quella della banda dei 20 metri, 14 MHz, non funziona bene dove dovrebbe funzionare, non accorda. Però lui mi ha detto, attenzione come mi stai dicendo tu adesso, e se è troppo tirato ti sale l'impedenza, ed è vero infatti, ma lo stai confermando anche lui, come tu, come stai dicendo tu, è la stessa cosa. Adesso io provo a renderla un pochettino più molle, nel senso più moscia, chiamiamolo, il filo, perché l'ho tirato troppo secondo me, e pensavo fosse un bene, invece è un male. Metto due millimetri, sono sicuro, metto, se tu la fai appena appena più blando il filo, infatti mi ha fatto vedere le sue fotografie, metto, vedi che le mie sono blande, soprattutto le bande, le mani, le bande alte non te ne accorgi, la banda dai 20 metri, che è la banda diciamo quella più lunga, perché dai, fa dai 20 a salire quella antenna lì, e mi crea rosso, troppo alto, è fuori accordo tra l'altro. Di nuovo a te. Sì, sì, è vero, è vero. Addirittura tu roba pensa che io mi sono accorto che mettendo per esempio la distanza del gioco da terra, diciamo dal piano di terra, ho dovuto mettere il gioco per esempio da distanza, da livello del terreno, da 30 cm mi dava 1,4, più lo sollevavo e più abbassava il stazionario, però se andavo ancora più in sopra lo aumentava, quindi io il gioco l'ho messo a 37 cm da terra, il shock parlo, e poi ho dovuto fargli un contrappeso con un cavo di massa, ho usato un cavo da 2,5 con un cavo di terra direttamente al paletto dove ho, siccome io delle radio, o sia la terra della, diciamo, dell'abitazione, però ho fatto anche una terra per le antenne, una massa terra per le antenne e una per le radio, tutte a un paletto fatto apposta, e ho attaccato questa filare con 16 metri di cavo, di terra, gli ho fatto il contrappeso. Perché senza contrappeso mi davano 1,3 su tutto, con contrappeso 1,1, perché non sappiamo il numero di telefono, se no te l'avevo mandato un video, ti faccio vedere come accorda i 160 metri dell'antenna, questa radio, cioè un colpo di accordatore è fatta, e ricevo benissimo. Ho un po' sorda la 27, la verità, un po' sorda ce l'ho la 27. Diciamo dai 25 un po' sorda, fine 30 sì, devo ammetterlo, però tutte le bande radioamatoriali è assurdo. Allora, la Grazioli su 7115 ho un segnale di 9 sul Kenwood con la Grazioli, e con questa faccia 9,25 senza amplificatore, parlo senza filtri. Però ho risolto molto il problema, diciamo sollevando il gioco da terra e mettendo un bel contrappeso a massa, sì, risolve. Sì, sicuramente, sono piccoli accorgimenti che magari sembrerebbero ininfluenti, però alla fine si migliorano tanto, o ti possono anche peggiorare se vengono fatti in un modo non adeguato. No? E la filare non possiamo valutarla perché c'è un coso di radiazione molto basso, per cui qua in città magari se tu senti uno che da Sassari a Porto Torre se lo senti in basso, magari quello che è giù, in cosa ti posso dire, a Roma magari lo senti meglio di quello di Sassari, per farti un rapporto. È tutto strano il discorso delle onde elettromagnetiche, oppure quello che è vicino a te lo senti a bomba, se c'è l'altro tuo vicino che lo sente basso, per dire. Sono tante cose che non riusciamo a capire, però possono essere anche la morfologia del terreno, tante cose, il piano di massa, eccetera, eccetera. Sono cose che influiscono, il campo di radiazione delle onde radio è talmente, è complicato, molte volte tu vai a un collegamento, senti l'Australia, la senti fortissimo e non senti magari il continente, può capitare da quel momento di propagazione, oppure ti dura 5 minuti l'Australia e poi di colpo scompare, il Zetaco arriva a 9 e poi di colpo non c'è più. A me mi è capitato di fare un collegamento e dicevo io, ma come cavolo ho fatto a fare questo collegamento? Una cosa, se dura quelle propagazioni istantanee che durano pochi minuti, tu sei riuscito a agganciare. E ha fatto questo. E troppe variabili ci sono nelle onde elettromagnetiche, nella distribuzione delle onde. Ok, questo per me è l'ultimo passaggio, perché adesso guardo un po' di televisione e poi mi riposo, perché sono un po' stanco. Ti ringrazio comunque Gavino, sempre un piacere con gli argomenti che abbiamo da condividere, sempre bello. Speriamo che capiti più spesso. Dai, ci sentiamo, ti saluto, ti auguro una buona notte e saluto anche eventuali qua amici in ascolto, che probabilmente c'è anche qualcuno che ha ascoltato, sperando che gli argomenti siano stati di interesse anche per queste persone. Vai Gabriele. Sì Roberto, sì, anche io adesso vado a riposare, perché domani mattina per me la sveglia è presto lo stesso. Sì, e anche a me fa piacere Roberto parlare di queste cose, perché dai, non si finisce, come si dice, non si smette mai di imparare sulle passioni e sugli argomenti interessanti, e come si dice in gergo, sempre un piacere avere un qualsiasi in questo modo, e spero che chi lo stesso, anche io penso così, chi ha ascoltato abbia gradito questo discorso, se può essere stato utile, abbia preso qualcosa. Va bene Roberto, vai, tutto alle prossime, buonanotte, buon tutto, un piacere di nuovo, ce la risentiamo. Comunque, se vuoi mandarmi il numero o qualcosa, basta che entri sul mio annuncio anche dell'ICR, me lo segni in privato. Ok, grazie, buonanotte Roberto, un saluto a te, a tutti gli ascoltatori, a tutto il popolo della 27075. Ciao, buonanotte. Te lo mando adesso, non dico proprio oggi, ma se è possibile domani ti manderò il messaggio col mio numero, e poi ci avrà modo anche di sentirci mai WhatsApp e cose del genere, che sarà più facile parlare. Ok, ti saluto di nuovo, ciao, salve a tutti. Ciao.